Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali. Buongiorno, buongiorno, sono Camilla Lattanzi, assieme al resto della redazione di Restiamo Animali vi do il benvenuto all'ascolto dell'11ª puntata della nostra trasmissione. Un viaggio all'interno della galassia Cruelty Free per scoprire molti modi di vivere, pensare e agire in piena fratellanza e amicizia con gli altri animali, riconoscendo loro il diritto alla vita, al rispetto, all'empatia e al livello più ampio possibile di libertà, quella che tutti vorremmo per noi stessi, noi umani, che siamo animali a nostra volta. Per amor del cielo, o mio cuore disperato, io ti porterò lontano. E quella di oggi è una puntata emotivamente intensa. La nostra dedica di oggi è un pensiero e un saluto a Sabrina Sganga, la giornalista di Controradio scomparsa sabato 5 maggio 2012 dopo 8 mesi di malattia. In questo stesso studio ho personalmente collaborato, discusso, riso e a volte anche battibeccato di brutto con lei nella ideazione e realizzazione della trasmissione Questione di Stili, che ci ha visti insieme per 7 lunghi anni. Alla fine siamo diventate cari amiche molto al di là della dimensione radiofonica. Ma il vuoto che lascia Sabrina è tanto altro. Per gli ascoltatori Sabrina è stata una voce che diventava un modo di guardare al mondo. La ricerca di alternative percorribili, uno sguardo incuriosito dalla possibilità di innescare un cambiamento, una continua messe di proposte concrete da attuare qui e ora per diventare protagonisti e sperimentatori, uscendo dall'ottica del consumatore passivo e conformista. E per tutti gli attivisti e movimentisti del territorio raggiunto da queste frequenze, Sabrina è stata una preziosa risorsa e cassa di risonanza. Quante volte l'abbiamo chiamata o le abbiamo scritto sulle più diverse questioni chiedendole uno spazio per parlarne in radio, e lei, se poteva farlo, dava sempre una mano. Intelligente, ironica, riservata e generosa, Sabrina ci mancherà moltissimo, come amica, come gassista, come vicina di casa, come giornalista, come interlocutore intelligente. Ma non ci siamo fermati nemmeno un attimo a piangerci addosso. A marzo siamo andati in ospedale a farle ascoltare la prima puntata di Restiamo Animali e lei ci ha detto: funziona. So che la frontiera del vivere cruelty free l'avrebbe appassionata e che sarebbe stata della partita se non fosse stata impegnata sul fronte di un'altra partita molto tragica, il cui esito ha lasciato tutti sconfitti. Restiamo Animali ha già ereditato in parte il suo spirito, perché Sabrina è stata anche una talent scout. Non a caso in questa redazione ci sono ben 2 soggetti da lei scoperti e iniziati al mondo della comunicazione radiofonica. Indovinate voi chi? Nel blog della trasmissione metteremo un ricordo di Sabrina per chi vorrà leggerlo. Voglio salutare Sabrina sulle note del nostro amato Bobo Rondelli, sgangherato poeta, romantico musicista, per i concerti del quale eravamo sempre pronte a partire in qualsiasi momento. Oggi buona parte della nostra scaletta è dedicata agli abitanti delle acque che sono maltrattati e uccisi, ma della cui sofferenza poco si canta se non in sparuti casi come Upisci Spada di Domenico Modugno, che potrete riascoltare guardando la playlist dal nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Iniziamo con il tonno islandese di Emiliano Torrini e proseguiremo con la storia di una mamma orca interpretata da Bjork, in questo caso ribattezzata Bjorka, e da suoi piccoli, che sono un gruppo un po' surreale, ovvero i Dirty Projectors. Uno sdolcinato delfino blu ci porterà indietro nel tempo per poi ritornare in Islanda dopo Torrini e Bjork con gli Eteri Sigur Rós. Faremo un tuffo nel passato per ascoltare un'interprete beethoveniana vegetariana di altri tempi, che ci farà ascoltare una sonata per ballauri e piano. Una piacevole sorpresa sono gli eventi musicali fiorentini più importanti di quest'estate, che sono all'insegna delle scelte vegane. Infatti il 1 luglio alle Cascine ci sarà il gradito ritorno dei Radiohead, mentre l'11 luglio al Teatro dell'Opera sarà la volta di Morrissey, E proprio a lui è affidato il finale, visto che domenica è il miglior modo per finire quello di ascoltare Every Day is Like Sunday, che in realtà però è un brano drammaticamente triste. Nella puntata di oggi per la rubrica Animal House siamo stati alla manifestazione contro la vivisezione in Piazza della Repubblica a Firenze e abbiamo intervistato due attivisti proprio sul tema del movimento animalista. Per visti da vicino siamo andati ancora all'Ippoasi a conoscere i conigli. Per la parte culturale, la perla agli umani di oggi è un libro di Tom Regan, filosofo, uno dei grandi autori del movimento animalista, Gabbie vuote, la sfida dei diritti animali. Il professor Luigi Lombardi Vallauri ci intratterrà questa settimana sul tema della non violenza, mentre Giuseppe Coco, per il pasto gentile, ci proporrà un patè di tofu. E poi, per concludere, avremo anche alcune notizie molto importanti. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Siamo in Piazza della Repubblica per la giornata internazionale contro la vivisezione e per la chiusura dell'azienda Green Hill di Montechiari, che è stata nelle settimane scorse al centro dell'attenzione del movimento animalista per la lotta e l'azione diretta anche che ha portato alla liberazione di qualche decina dei cani beagle che sono imprigionati in quell'azienda per poi essere destinati alla vivisezione. Siamo qui con due ospiti molto qualificati per il loro ruolo che hanno all'interno del movimento animalista per fare un po' il punto sul momento storico che sta vivendo l'animalismo in Italia in una fase di grande visibilità anche grazie al caso Green Hill, e la mobilitazione di oggi in tante città italiane e anche all'estero ne è la prima riprova. Abbiamo Alberto Santelli di Sea Shepherd, che è una grande organizzazione internazionale che si occupa di animali marini e li protegge anche con interventi di azione diretta con le imbarcazioni che questa organizzazione possiede. Alberto ha partecipato nel luglio scorso ad un'azione alle isole Faroe, che sono sotto il dominio della Danimarca, a largo della costa europea, dove si pratica la pesca dei globicefali, che sono come dei grandi delfini, che sono indirizzati con le imbarcazioni dei pescatori verso le baie, le insenature di queste isole, e lì si assiste a una mattanza con i mezzi più disparati. Sea Shepherd si è occupata di impedire questa mattanza nel luglio scorso. Come è andata a finire, Alberto? Sì, la campagna nostra in difesa dei globicefali è andata, devo dire, molto bene, perché durante la nostra permanenza nelle acque faroresi con le nostre due navi, l'ammiraglia Steve Irwin e con il trimarano veloce Brigitte Bardot, siamo riusciti a impedire l'uccisione dei globicefali. Nessun globicefalo è stato ucciso durante la nostra permanenza alle isole Faroe. E noi siamo andati su all'inizio dell'estate, perché la campagna, la mattanza ovviamente avviene nel corso della stagione estiva, e durante appunto la nostra permanenza nessuna grind, così viene denominata dai locali la mattanza, è stata compiuta. L'azione diretta è stata anche non necessaria in quel caso, perché i faroresi non hanno neanche azzardato alla mattanza a causa appunto della nostra presenza presso le Faroe, e abbiamo pattugliato in lungo e largo le isole in modo da farci notare bene. Tutti ovviamente i faroresi e anche le autorità erano al corrente della nostra presenza, addirittura avevamo una scorta armata, perché la marina delle Faroe ci ha messo alle calcagna un loro pattugliatore che ci ha seguito passo passo, ma noi non dovevamo assolutamente fare azioni diciamo illegali, erano loro che erano dalla parte del torto, perché i globicefali in tutta Europa, così come tutti i cetacei, sono protetti dalla Convenzione di Berna, quindi loro questa mattanza la fanno in modo illegale, e dunque la nostra presenza funziona da deterrente. A bordo delle nostre navi abbiamo anche le troupe di Animal Planet che girano durante le nostre campagne la serie televisiva Whale Wars, che va in onda su Animal Planet, e quindi forse anche questo ha contribuito che la mattanza non venisse svolta, ecco. Una curiosità: una delle imbarcazioni impiegate in questa operazione è stata intitolata Brigitte Bardot, perché la fondazione Brigitte Bardot ha finanziato la campagna alle isole Faroe. Qui in Piazza della Repubblica intanto è in corso la manifestazione, ci sono alcune decine, qualche centinaio di persone alla manifestazione contro Green Hill, di cui Fabio con altre 11 persone è stato fra i protagonisti, è stato anche arrestato, è stato 2 giorni in carcere. Questa vicenda avrà degli sviluppi in tribunale in tempi che ancora non sono conosciuti e non chiediamo a Fabio di parlarne perché ci sarà appunto l'aula del tribunale per entrare nel racconto e nel merito di quella vicenda. Però da Fabio ci interessa sapere come vive questo momento di attivismo animalista così visibile e così almeno apparentemente anche circondato, forse sembra di percepire, da una forma di consenso anche nell'opinione pubblica. Beh, diciamo che l'attivismo in sé per sé a livello animalista, come diceva anche Alberto di Sea Shepherd, ora vive un momento caldo che va, secondo me, sfruttato. Bisogna cavalcare l'onda perché comunque l'opinione pubblica in questo momento ne sente parlare e sa tante cose che fino adesso non venivano comunque evidenziate né in televisione né sui giornali, così. Quindi c'è un movimento in atto che non riguarda solo Green Hill. Green Hill è una parte, come lo è Sea Shepherd, come è la lotta contro le pellicce, contro gli allevamenti, in tante situazioni, cioè tutto quello che riguarda il rispetto degli animali di ogni specie. Io spesso parlo di antispecismo, infatti, non tanto di animalismo, perché comunque pensiamo che non ci debba essere differenza né fra le specie animali, quindi un cane ha lo stesso valore di un gatto, come di un ratto, come di un maiale. Quindi l'attivismo, secondo me, dovremmo farlo, innanzitutto, e possiamo farlo a casa. Io credo che l'attivismo parta proprio dalle mura domestiche, quindi da come l'attivismo facciamo al supermercato quando andiamo a fare la spesa, quindi cerchiamo di comprare prodotti non testati su animali, quindi evitiamo già lì una violenza, che se tutti non comprassero prodotti testati su animali probabilmente nessuno testerebbe su animali, visto che è stato dimostrato che ci sono prodotti che non vengono testati, quindi cruelty free, certificati e tutto, quindi è possibile farlo. Si parla spesso di farmaci, però solamente il 30% di sperimentazione riguarda i farmaci, il resto è tutto dedicato a cose superflue, no? E anche già sui farmaci comunque ci sarebbe da discutere. Attivismo, secondo me, si può fare in tanti modi, si può fare a partire proprio da noi stessi. Lavoriamo noi ogni giorno nel nostro piccolo quotidiano, da come ci vestiamo, dall'alimentazione che facciamo. Siamo attivisti veramente, cioè non solamente andando a fare un qualcosa apparentemente di illegale, che secondo me, cioè andare a liberare un animale illegale non ha niente, però di questo poi lo giudicheranno altri. Il fatto di vedere questi cuccioli che passavano sopra le cancellate è stato un momento anche emozionante per chi non c'era. A tuo avviso l'azione diretta ha un peso specifico in questa fase? Beh, diciamo che nell'insieme, cioè che tutto nell'insieme avrà un peso specifico, quindi non solo l'azione ma anche quello che è successo dopo, perché nessuno si aspettava, noi per primi quando siamo stati portati in questura, che ci fosse un arresto, perché pensavamo a una semplice identificazione, ecco. Però tutto questo, visto che ha scatenato un qualcosa di grande che nessuno si aspettava, quindi l'insieme, quindi non solamente l'azione ma anche quello che è successo dopo, la solidarietà stessa che abbiamo trovato noi in carcere, comunque da parte dei detenuti, anche dei secondini del carcere, bene, tutto questo appoggio che abbiamo avuto ci ha dimostrato che la gente è convinta che non che dobbiamo fare azione diretta, ma che c'è una legge che va cambiata. Perché io ho sentito un'intervista di un medico che fa sperimentazioni, e lui abbastanza imbarazzato comunque di fronte alle accuse che gli venivano rivolte, diceva: beh, però c'è una legge che impone che un farmaco debba essere testato, quindi il problema non è l'azione tanto o meno diretta, è la legge che deve essere cambiata. Alberto, nella tua esperienza, questa fase storica del movimento animalista, del movimento antispecista, diciamo meglio, come suggerisce Fabio, a che punto è questa storia? Sta veramente avendo un picco? C'è una possibilità di un'espansione ulteriore? Io credo che ci sia una presa di coscienza dei cittadini verso appunto questa sensibilità, perché se guardiamo anche la storia passata, veniamo dal mondo contadino in cui uccidere il maiale era all'ordine del giorno, e quindi poi la famiglia si cibava del maiale ucciso in casa, e oggi se pensiamo agli animali domestici che sono le nostre famiglie, nessuno mai ucciderebbe il sì, ma anche il maialino, il coniglio, per mangiarselo. Quindi c'è un'evoluzione sicuramente di questa sensibilità, e questo finalmente, insomma, ben venga. E per quanto riguarda Sea Shepherd, anche durante i nostri eventi, al di là delle azioni che facciamo, durante i nostri eventi troviamo grandissima sensibilità, grandissima adesione e sostegno dai cittadini, che appoggia assolutamente queste azioni dirette, anche perché forse la politica ormai non è più adeguata a risolvere i problemi, anche questi problemi, non solo i problemi del quotidiano, e quindi poi i cittadini scendono in strada a intervenire in modo diretto per ristabilire quella giustizia che evidentemente non appartiene più ai codici, perché c'è forse uno scollamento tra quello che le coscienze avvertono e quello che la legge invece prevede e a volte impone. Come diceva Fabio, il reato è liberare il cane Beagle, o il reato è tenerlo in gabbia per un'attività che è veramente inutile e anche veramente efferata, con una violenza inaudita. Insomma, era Einstein che diceva che nessuna scienza può giustificare una tale barbarie. Non sono io, Alberto, né Fabio, era Albert Einstein lo diceva. Quindi forse dovremmo anche rivedere un attimino quello che i nostri codici prevedono, e forse di portarli a quello che è la coscienza attuale. Fabio, un'ultima cosa: qual è il ricordo più bello che porti con te della vicenda che hai vissuto a Montichiari? Beh, io vengo a Montichiari da 3 anni circa, quindi ho visto una realtà che è cresciuta comunque a livello anche di coscienza delle persone che si riuniscono intorno a questo fenomeno. Preferirei che si allargasse non solo a Montichiari, ma a tutto quello che è l'argomento vivisezione in generale. Ero a Pisa 2 ore fa, c'era una ragazza che aveva con sé un ratto sulle spalle, che lo usava come animale domestico, nel senso, quindi a dimostrazione che tutti siamo uguali. Il ricordo più bello, però, la solidarietà e, diciamo, l'affetto che ho sentito da parte di tante persone che non conoscevo, soprattutto in carcere, in una situazione veramente difficile come la vita carceraria. E tanti diranno è così che deve essere, ma io, credetemi, ho visto una situazione dove la dignità umana è proprio sotto zero anche lì, e quindi ho vissuto quello che stanno vivendo i cani di Green Hill e tutti gli animali negli allevamenti, perché eravamo in 2 in una cella da 6 persone, dove l'acqua ce la dovevamo comprare se la volevamo, e in un ambiente piccolissimo, e a differenza dei cani avevamo l'ora d'aria. Quindi in questa situazione qui trovare la solidarietà delle persone che dovevano stare lì anni, solidarietà di persone che ci hanno scritto una lettera, cioè leggere questa lettera che ci hanno scritto, è stata una cosa veramente che ti fa capire che la vita è bella, va vissuta in ogni momento è una bellissima sorpresa, e abbiamo tutti il diritto di viverla senza nessuno che ci imponga come fare. Alberto, un tuo ricordo invece della campagna alle Faroe? La campagna è stata molto bella e emozionante, intanto perché era la mia prima campagna con Sea Shepherd, quindi dopo tanto volontariato a terra, anche fare volontariato a bordo è stato ovviamente entusiasmante. Se ami qualcuno, se lo puoi difendere, sei felice. Quindi tutti i giorni che eravamo là, noi sapevamo che i faroresi non facevano la mattanza perché noi eravamo là, e quindi che dirti. Ma i globicefali li avete visti? I globicefali li abbiamo visti, poi tra l'altro il giorno dopo in cui io sono andato via, i miei compagni volontari hanno avuto la fortuna di essere circondati da un branco di circa 500 globicefali. Sono stati con loro per tutta un giorno e tutta la notte, e ovviamente poi la fantasia corre a dare un senso a questo. Ecco, il nostro senso è che questa sia stata una festa dei globicefali, che evidentemente hanno in qualche modo hanno sentito che noi eravamo lì per proteggerli e non per assassinarli come erano abituati a subire negli scorsi anni, ecco. Bene, allora ringraziamo sia Fabio che Alberto, e ricordiamo che per aiutare Sea Shepherd da quest'anno è possibile anche devolvere il 5 per 1000 con la dichiarazione dei redditi, e tutte le informazioni sono sul sito di Sea Shepherd o sulla pagina Facebook di Sea Shepherd. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. siamo tornati all'Ipposi, a Marina di Pisa. Siamo con Egon nel recinto dove convivono polli, qualche papero e dei conigli. Questi conigli hanno una vita molto particolare qui dentro rispetto a come siamo abituati a vederli, chiusi dentro gabbie e obbligati a mangiare continuamente con un'alimentazione quasi forzata. E la cosa che più colpisce è che ci sono delle buche, delle tane. Le hanno fatte loro? Sì, diciamo che i conigli sono, penso, gli ultimi animali che sono stati domesticati dall'essere umano e quindi veramente mantengono moltissimo del loro stato selvatico, anche perché sono animali particolarmente selvatici, per cui penso che siano degli animali che soffrono particolarmente, sia chiaramente dentro gli allevamenti che, avendo pochissimo valore commerciale, i conigli come le galline vengono appunto tenuti in maniera assurda in queste gabbie minuscole con pochissimo spazio uno per ognuno, ma anche i conigli che vengono considerati domestici e che vengono costretti a vivere in casa, nelle gabbie, a che fare con i bambini. Penso che siano comunque animali molto stressati, perché i conigli sono animali molto timidi, molto schivi, molto paurosi, e tanto è vero, insomma, pauroso come un coniglio e quindi penso che appunto il contatto con l'essere umano debba avvenire in maniera molto molto molto soft. E noi vediamo che come che i conigli, che magari vengono anche da casa e quindi magari avevano vissuto fino al giorno prima nel salotto di casa a contatto con bambini eccetera, una volta messi qua in uno spazio grande tendono a scappare e a non farsi più toccare e a decidere di non farsi più non avere più quel rapporto invasivo con l'essere umano. Quindi i tunnel che hanno scavato evidentemente rispondono a questo loro. Esattamente, loro chiaramente, conigli sono animali, poi appunto sono animali che sono tra l'altro, non sono completamente diurni, quindi vivono anche di notte, vivono dentro cunicoli, quindi nel senso, quindi hanno proprio anche un modo di vita che non è assolutamente come la nostra, diurna e terricola sopra la terra. Loro proprio vivono scavando appunto queste tane, vivendo sottoterra, queste tane enormi, e loro praticamente appunto qua, essendo poi terreno sabbioso molto morbido, e quindi si sono riscavati queste tane e noi ogni giorno troviamo delle buche enormi che non vedi la fine e dove loro poi vanno, si portano dentro da mangiare, si portano dentro il fieno, e quindi pure appunto essendo tutti animali nati in cattività ricominciano a fare queste cose. Qui ne vedo due di caratteristiche diverse, uno grigio, il coniglio più classico, l'altro sembra un coniglio più da casa, esatto, totalmente bianco. Esatto, quello è un coniglietto proprio di queste razze create per appunto per fare i coniglietti domestici, che sono appunto coniglietti molto piccoli e magari con delle caratteristiche dei peli, del ciuffo, delle orecchie particolari proprio dal punto di vista estetico, e sono quelli che si trovano tra l'altro a centinaia nei parchi cittadini, perché praticamente spesso vengono presi e poi vengono abbandonati nei parchi con la convinzione che tanto il coniglio si arrangia, e quindi in tutti i parchi cittadini, tutte le città c'è proprio questa emergenza di questi conigli abbandonati che invece non riescono a cavarsene assolutamente, innanzitutto perché spesso sono razze che appunto non sono neanche molto adattabili alla vita selvatica, spesso anche per un problema di pelo. Ci sono i conigli d'angora che non riescono più a muoversi perché si annodano i peli uno con l'altro, sì. E poi non trovano da mangiare abbastanza nei parchi, quindi c'è sempre questa emergenza di questi conigli, e noi appunto abbiamo uno di questi esemplari che sono stati abbandonati e adesso vive qua insieme agli altri. E gli altri invece sono proprio i classici conigli da carne, che invece vengono dall'Università di Pisa, e sono loro appunto che fanno queste buche gigantesche. Ne approfittano anche i coniglietti bianchi o? Sì, i conigli si stanno sempre, sono insieme, sì, però una volta mi ha fatto tenerezza che appunto per tenere i conigli bisogna stare attenti, perché siccome fanno queste buche incredibili riescono sempre a uscire dalle recinzioni, quindi se uno ci tiene che il conigno non esca e non sia predato magari fuori dai cani o da eccetera eccetera, devi fare molta attenzione a queste reti perché loro riescono a scappare da tutto. Una volta erano riusciti a fare una buca incredibile sul terra e erano riusciti a uscire, e mi ha fatto veramente tenerezza questo coniglio bianco che era riuscito a uscire e mi guardava lì fuori con una faccia da cartone animato, e dicevo: ma te cosa ci fai qui fuori? Torna a casa. Mi ha fatto proprio una tenerezza, proprio disadattato. Ma dove vai? Ma dove vuoi andare? Dalla scorsa settimana i conigli dell'Ipposi non ci sono più. Una faina affamata, appena è sceso il sole, ha ucciso qui e qua. I ragazzi di Poasi ne hanno trovato uno morto nel recinto e a lungo hanno sperato che l'altro si fosse nascosto in una buca, ma non è riapparso nemmeno nei giorni successivi. Consapevoli che la zona in cui si trova l'ipoasi è popolata da molti animali selvatici cacciatori, i volontari hanno sempre avuto remore nell'ospitare animali facili da cacciare come i conigli, ma questa volta avevano ceduto alla richiesta di chi chiedeva una sistemazione alternativa per questi animali, usciti da un laboratorio di vivisezione. D'altra parte le faine non avevano mai colpito prima di mezzanotte, ma ora siamo in primavera, che è il periodo delle nascite, e quindi le mamme sono in caccia di cibo anche per i piccoli. Per salvarli dagli animali selvatici, i conigli venivano fatti dormire nelle casette, dove però venivano chiuse solo la sera, per permettere loro di trascorrere una vita il più possibile libera. Nonostante l'enorme tristezza per l'accaduto, ci consoliamo pensando che la vita di qui e qua sia stata comunque degna di essere vissuta, proprio grazie all'ultimo periodo trascorso all'ipoasi. Per questo motivo abbiamo deciso di mandare ugualmente in onda il servizio realizzato quando li avevamo conosciuti. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Lottare per aumentare i diritti degli animali mantenendoli in schiavitù o puntare alla loro liberazione? Secondo Tom Regan, professore emerito di filosofia alla North Carolina State University, dobbiamo svuotare le gabbie, non renderle più grandi. Questa affermazione dà il titolo al saggio Gabbie vuote, pubblicato nel 2004. Con questo saggio, il filosofo statunitense, classe 1938, considerato tra i padri del movimento di liberazione animale, vuole sfatare il mito del trattamento umano da parte di chi gli animali li sfrutta per cibo, abbigliamento, spettacoli, sport. Un libro di denuncia, quindi, ma anche un testo filosofico, in quanto Regan spiega che gli animali sono soggetti di una vita e titolari di diritti morali inalienabili. L'autore con questo libro si rivolge a quelli che definisce temporeggiatori, cioè coloro che non hanno ancora sviluppato una piena coscienza animalista e sono ancora in attesa di mettere pienamente in pratica le proprie convinzioni, così come lui stesso ammette di essere stato a lungo prima di diventare finalmente vegetariano e poi vegano. Questo libro non può mancare tra le letture di chi si avvicina al tema dei diritti degli animali, perché con molta chiarezza accompagna il lettore in un cammino sicuramente difficile, che non mancherà di svelare aspetti forse sconosciuti ai più e che porterà a fare i conti con la propria coscienza e con i propri stili di vita. Per incuriosirvi, leggiamo un brano da Gabbie vuote di Tom Regan. Ci sono tanti ed enormi problemi intraumani da affrontare, dalla fame alla guerra, dalle cure sanitarie all'analfabetismo. Dopo aver risolto questi problemi, potremo rivolgere la nostra attenzione ai diritti animali. Non occorre essere cinici per comprendere come quest'altro non sia se non una ricetta per trascurare i diritti animali per il resto dell'eternità. Se siamo realisti, saremo ben consci che ci saranno sempre alcuni problemi umani da risolvere. Ad esempio, non è forse vero che i poveri ci saranno sempre? Ne consegue, data questa obiezione, che non sarà mai possibile volgere la nostra attenzione ai diritti animali. È solo una mia impressione o anche qualcun altro ha provato la sensazione che chi pone questa obiezione semplicemente non vuole ascoltare quanto sostenuto dai difensori dei diritti animali? La mia personale esperienza mi ha insegnato due cose sulle persone che pensano in questo modo. Primo, quasi invariabilmente, non sempre, ma quasi sempre, costoro non sono seriamente coinvolti in nessuna attività volta a risolvere i problemi umani. Piuttosto passano la maggior parte del loro tempo libero giocando a golf o guardando qualche telenovela. Sono falsi attivisti che limitano il loro attivismo a qualche donazione in denaro e solitamente ben poco a favore di una qualche associazione umanitaria. In altre parole, la maggior parte di loro per gran parte del tempo è affetto dalla peggior forma di malafede. Secondo, i difensori dei diritti animali non considerano i due aspetti della questione come separati, o contribuisce a risolvere i problemi umani oppure aiuti gli animali. Piuttosto li vediamo come due facce di una stessa medaglia, aiutiamo a risolvere i problemi umani e aiutiamo gli animali. Ad esempio si può essere seriamente impegnati ad aiutare le vittime della fame e essere vegani, oppure ci si può occupare del dramma dell'analfabetismo e non comprare pellicce, indumenti in pelle o in lana. I diritti animali non devono necessariamente essere l'unico impegno della nostra vita per esserne una parte integrante. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Signore e signori, prendete carta e penna. Anche la ricetta di oggi sarà emozionante. Un patè madanimo, ovvero un patè di tofu. Oggi vi suggeriamo una rapida preparazione con il tofu. Una crema per accompagnare a braccetto le vostre verdure o da spalmare sul pane. Però è necessario una cosa che sicuramente la nostra Camilla, visto che è molto alternative, sono contraria, non ha, a prescindere, però sbava d'invidia. Occorre uno di quei marchingegni che tritano, frullano, spolverano e vi dicono anche: siete bravi. Si comincia così e poi si diventa una multinazionale. Ingredienti: 40 grammi di anacardi, 150 grammi di tofu. I miei colleghi lo chiamano tofu. Parente del topinambur. Savasandir. Un cucchiaino di curry. Un pizzico di noce moscata. Sale, timo. 10-15 grammi di olio d'oliva. Un cucchiaio di succo di limone. Manca un ingrediente. Sono preoccupata. Per Camilla, ma solo per lei, l'immancabile cumino. Bravissima, così fa un patè di tofu cuminato. Indovina che cumina trena? Preparazione: tritate gli anacardi, poi il tofu, che a questo punto diventerà cremoso. Dopo aggiungete il trito di anacardi, le spezie, il sale, il limone e l'olio. Frullate e omogenizzate il tutto e sistemate di sale la vostra salsina se necessario e voilà, è pronta. Perché io? Sgrano vegano! Sostiene Vallauri. La non violenza, Ahimsa, e la verità, Satya, che poi si equivalgono, sono, diceva Gandhi, antiche come le montagne. Sono come un filo sottile di acqua pura che non si confonde al fiume di sangue della storia. Nasce con i rinuncianti, gli Shramana, i Sadhu del VI secolo a.C., con i buddhisti, con i jainisti, mezzo millennio prima di Gesù, poi nel Nuovo Testamento, insieme a spaventosa violenza, andate maledetti nel fuoco eterno, ci sono frasi come beati i miti perché possiederanno la terra, che sono schegge di Ahimsa. La non violenza appartiene forse più che a un'etica precettistica, a un'etica sapienziale, cioè non tanto l'etica dei comandamenti e dei peccati, ma l'etica dei consigli e degli ostacoli. La violenza è un ostacolo a raggiungimenti psicospirituali più alti. È molto difficile che qualcuno possa raggiungere la cosa chiamata illuminazione mantenendo dentro di sé una crudeltà egoica per cui preferisce se stesso a tutto il resto del mondo. I rinuncianti si chiamano fuori dalle cinque glorie della Ahimsa, della violenza: la guerra, la pena di morte e la pena in genere, la grande caccia sportiva, quella dei re, il banchetto carnivoro, il sacrificio cruento, prima dei figli, poi degli animali, vedi Abramo. Non è soltanto un precetto, è una complessiva visione del mondo che a poco si estende dagli uomini agli animali e dagli animali al creato. È la grande nemica delle istituzioni religiose che hanno sacralizzato la violenza per tutti i millenni della storia. È strana, perché non è un amore geometrico, è riportare su tutti gli esseri senzienti e addirittura viventi l'ingiustizia, la tenerezza che hai per la persona che ti sta più a cuore. Certamente la non violenza è un guastafeste, perché se la festa è la grigliata tra due roulotte, è chiaro che la non violenza è un commiato da questo tipo di gioia. Però senti le gioie leggere dell'agio etico. Io quando mangio cose vegan sento che sto bene. e sono anche, devo dire, spesso abbastanza ghiotte. La grande compassione buddista è la parola positiva che sostituisce la non violenza. È interessante che ci sono delle tradizioni nelle quali, come nel tantrismo, la grande compassione universale, questa ingiustizia riportata su tutti i singoli esseri, quella cantata da Capitini, questa grande compassione si unisce alla grande concupiscenza, cioè al vivere innamorati con una N sola, vivere l'amore alla vita, la compassione e l'amore alla vita come misericordia e tenerezza e come entusiasmo. E adesso un po' di news. La prima è una cattiva notizia. È stato infatti annullato il referendum sulla caccia che doveva tenersi a inizio giugno in Piemonte. Sull'iter di approvazione e poi di annullamento di questo referendum troverete approfondimenti nel nostro blog. Volevo segnalarvi un interessante mensile che si occupa di benessere e salute. Si chiama L'Altra Medicina Magazine, un giornale che vanta la collaborazione di molti specialisti delle terapie non convenzionali. Ogni mese vengono trattati in modo semplice ed esaustivo temi riguardanti l'omeopatia, la naturopatia, fiori di Bach, veterinaria omeopatica, medicina orientale e alimentazione. In particolare vi volevo segnalare nel numero di maggio un articolo curato dalla dottoressa Luciana Baroni, fondatrice e presidente della Società di Nutrizione Vegetariana, articolo che verte sull'alimentazione vegetariana nella terza età. Si possono apprendere piacevoli curiosità e consigli pratici per vivere in salute. C'è anche un decalogo di norme dietetiche per l'anziano vegetariano e non solo. È appena entrato in circolazione il nuovo treno veloce della ditta Luca di Montezemolo Diego della Valle, due imprenditori e finanzieri che hanno così cominciato a macinare profitti grazie all'ideologia liberista, alla base di una liberalizzazione del trasporto ferroviario che ha relegato in secondo piano la logica del servizio pubblico, danneggiando la maggioranza dei passeggeri, cioè quelli che percorrono, per lavoro, brevi tragitti sulla rete regionale. Nel regolamento d'accesso al treno, chiamato goffamente Italo, con sospette allusioni a una stagione storica per la quale non è bene avere nostalgie, è previsto il divieto d'accesso per animali di peso superiore a 10 kg. Trenitalia ammette invece gratuitamente animali nei trasportini e chiede il pagamento di un biglietto dimezzato per quelli di taglia superiore. Non è facile capire quale sia la logica che ha ispirato questa norma ai manager di Italo. Questo divieto ha il chiaro crisma della discriminazione. È del tutto arbitrario e motivato, se non, forse, in una logica nella quale anche lo spazio fisico è denaro. Un cane di grossa taglia occupa quasi il posto di una persona, ma sarebbe difficile chiedere il prezzo intero quando la concorrenza chiede solo la metà. Meglio tenere fuori i cani e lasciare libero il posto per il passeggero, anzi, per il cliente, una perfetta applicazione dei più beceri principi del profitto e del commercio. Anche per questa norma discriminatoria che copre di vergogna i due imprenditori, il nostro invito è protestare contro la compagnia e non salire mai su Italo. Boycott Italo! E siamo in chiusura, la redazione di Restiamo Animali, quindi Beatrice Montini, Elisa Moretti, Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco e Lorenzo Guadagnucci vi salutano e da oggi anche Alessandra Giannini e Massimo Chiari. Le loro fotografie e biografie le troverete nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com, nella sezione Chi siamo e nella homepage di controradio.it. Aspettiamo i vostri commenti, i vostri contributi, anche le vostre critiche eventualmente al nostro indirizzo di posta elettronica restiamoanimali@controradio.it. E l'ultimo saluto sarà ancora per Sabrina. Ciao Sabrina. Ciao Sabrina. Ciao Sabrina. Ciao Sabrina. Ciao Sabrina. Ciao Sabrina. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali.